CRM 0921 423456. Va ora in onda qua e là tra una novità e l'altra. Da Angelo Arduino, Fabio Fiducia e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre, un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono da ogni parte del mondo sul sito www.crmpiradio.it e consentitemi per una volta di dare un saluto particolare a mia figlia Daniela che segue questa trasmissione da Parigi. La scaletta di oggi. Intanto abbiamo in studio l'avvocato Massimo Punzi, lo ringraziamo per questo, così come ringraziamo Liliana Solaro e Mariella Genchi che sono in studio, e così come ringraziamo anche Pino Minutella e Totò Valenziano che oggi se la godono dopo aver vinto il campionato di calcio e quindi l'anno prossimo saranno in promozione, sono abbastanza felici, distesi e quindi affronteranno l'ultima partita con il Longi in tema di festività. Vorrei aggiungere anche che ci raggiungerà più tardi il dottor Giuseppe Danna, uno scienziato, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilman, il quale tratterà di terremoti. Purtroppo c'è anche la Sicilia un po' ballerina, quindi vorremmo saperne un po' di più su questi terremoti che via via si susseguono e per fortuna non di grande intensità, ma che ci sono e non è il caso comunque di allarmarsi per questo. E iniziamo dall'avvocato Massimo Punzi. La sanità, l'ospedale. C'è stata una visita del presidente della regione Raffaele Lombardo che ha giudicato l'ospedale di Cefalù di ottima sanità con punte di eccellenza. E ha incontrato i primari, ha incontrato il consiglio di amministrazione dell'ospedale e tra essi anche Massimo Punzi che fa parte appunto del consiglio di amministrazione dell'ospedale e quindi ne ha parlato in termini positivi. Io vorrei intanto giro la parola all'avvocato Massimo Punzi perché continui un po' o ci faccia sapere di più sull'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Ecco, come stanno le cose intanto? Allora, intanto grazie per l'invito e saluto tutti i radioascoltatori. Io in ordine a questa visita del presidente della regione Lombardo al nostro ospedale ho avuto modo di affermare il mio stupore allorquando il presidente appunto ha elogiato l'ospedale di Cefalù come una grande, bella realtà sanitaria siciliana, dando così dimostrazione, dopo 4 anni di governo regionale, di non sapere nulla sostanzialmente di Cefalù, non averlo mai visto, e conseguentemente ha dato prova che gli aiuti che la Fondazione da anni ormai chiede alla Regione per sistemare la propria posizione economico-finanziaria, che non è certamente dovuto a carenze di prestazioni o a deficienze nelle prestazioni stesse, ci faccia uscire da una situazione effettivamente veramente difficile. Dicevo questo, al di là di quelle che possono essere le varie tematiche sul tavolo poste negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, mi riferisco in particolare all'ostetricia, al centro nascite, che ha sollevato appunto le preoccupazioni di tanti, dei sindaci in primis. Ritengo che l'ospedale di Cefalù oggi ci si debba essere preoccupati per l'ospedale per non la difficoltà o il rischio che possa esserci una chiusura del centro nascite, ma che ci possa essere il rischio di ritorno alle condizioni di una volta che tutti noi conosciamo. Questo perché è entrato un nuovo amministratore, credo Rotelli, e quindi non si sa quale atteggiamento assumerà alla scadenza del contratto nel 2013. Forse questo alludi a questo, Massimo? No, le situazioni, le traversie del Sarafele e del Monte Tabor di Milano incidono ben poco sulle nostre condizioni. Non fosse altro perché per costituzione, per atto costitutivo, il Sarafele di Milano era ed è obbligato soltanto al trasferimento del know-how. È un trasferimento che di fatto c'è già stato ed è quello che si è registrato all'atto dell'avvio della fondazione e che ha dato i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno può disconoscere che oggi Cefalù è una realtà importantissima, viene ritenuto uno dei due punti di eccellenza della sanità siciliana assieme all'ISMET, ha un'attrazione e quindi un bacino d'utenza che è diventato oggi quasi ingestibile. Tutti sappiamo quali sono le lunghe liste d'attesa nei ricoveri, le lunghe liste d'attesa negli interventi operatori, la difficoltà che abbiamo nel far fronte a piccoli interventi proprio perché dobbiamo contrastare con patologie importanti e che mettono in rischio la vita dei pazienti e quindi conseguentemente tralasciare un po' le patologie meno importanti. Il problema serio è che la regione tratta l'ospedale di Cefalù come se fosse una semplice clinica privata. Assegna un budget, se questo budget viene superato la clinica e quindi l'ospedale di Cefalù non prende più nulla. Quindi le deve fare a proprie spese, insomma, nella sostanza. E quindi continua a fare le prestazioni a proprie spese. E questo è un danno netto. È certo che è un danno. Oltretutto, ecco, come tu giustamente dicevi, ma io chiunque, qualsiasi persona di buon senso che va all'ospedale si rende subito conto che l'ospedale è diventato un punto di riferimento non soltanto per Cefalù e le Madonie, ma anche per la Sicilia e per l'Italia, se è vero come è vero che molta gente viene anche da oltre lo stretto di Messina per curarsi all'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Io ho visto molti colleghi giornalisti che portano i propri genitori a operarsi al San Raffaele Giglio di Cefalù e questo poi significa, a mio avviso, che avevamo visto giusto noi, avevano visto giusto i cittadini Miccichè e la senatrice Simona Vicari quando si sono battuti per perché nascesse questo ospedale di Cefalù e diventasse un centro di eccellenza. Certo, le difficoltà ci sono, ma in questo sta il problema, cercare di superarle in tutti i modi. Ecco, e come tu dicevi appunto, che è diventato un punto di riferimento e quindi è portato a crescere, non a diminuire in un certo senso. Quindi anche il punto nascita dovrebbe rimanere così come fino ad ora, e io credo che non si è mai chiuso questo punto nascita. C'erano state delle voci, delle discordanti che facevano intravedere che il punto nascita fosse stato chiuso. In realtà non si è mai chiuso, credo. Tu puoi confermarcelo? Sì, confermo che il centro nascita non è stato chiuso. Non può disconoscersi il fatto che il rischio di chiusura c'è stato e c'è tuttora. È per quella che è la politica regionale diretta appunto a escludere Cefalù dal piano provinciale e regionale dei centri nascita, e per un problema più importante che era quello a cui mi riferivo prima, cioè una difficoltà economica finanziaria che soffre la fondazione e che costringerebbe la fondazione a dover attuare una strategia aziendale che non va verso il sostegno a tutti i pazienti, ma deve, con una scarsità di risorse, deve riorganizzarsi per poter far fronte a quelle patologie che diventano positive, non dico redditizie, ma che non siano in perdita rispetto ad altre patologie, ad altri reparti che obtorto collo in tutti gli ospedali non possono riprendere le spese che affrontano con le prestazioni. Per questo dico il discorso è solo un discorso politico. Se la regione entra nell'ottica di trattare Cefalù così come tratta tutti gli altri ospedali pubblici, faccio presente che non c'è un ospedale pubblico che non registri un disavanzo annuale, noi invece come fondazione abbiamo il divieto di il divieto è alla regione di ricoprire, di ripianare i disavanzi eventualmente registrati. Massimo, se me lo consenti, anche prima, quando c'era soltanto il Giglio, io mi ricordo che c'erano 10 miliardi e mezzo di lire annui di deficit, quindi che la regione doveva cercare di sanare. Ma come stanno, ecco, io so che c'è un ricorso al TAR, ma come sono i rapporti con la regione, con l'ASL 6? Allora, i ricorsi sono il contenzioso è su due fronti, uno che riguarda il contenzioso avviato dalla fondazione nei confronti della regione, perché la regione non riconoscerebbe alla fondazione qualcosa come 36 milioni di euro di prestazioni già erogate e che a seguito dei controlli effettuati dall'ASP non dovrebbero essere pagate. Queste contestazioni fanno riferimento a violazioni di carattere formale, a prestazioni effettuate con codici magari non esatti, ma di fatto a prestazioni tutte eseguite. E pensare di non pagare queste prestazioni e quindi determinare un passivo di questa portata nei confronti della fondazione non significa altro che minare le basi della fondazione stessa e veramente distruggerla non solo sul centro nascita ma su ogni altro reparto che funziona come e meglio del centro nascita. Abbiamo, e qua sarebbe importante che ci sia un moto popolare, quantomeno dei sindaci, per far sì che la regione consideri Cefalù alla stregua di tutti gli altri ospedali pubblici, perché pubblico è, e possa quindi trattarlo con gli stessi criteri. Trattarlo con gli stessi criteri significa che se dovesse registrarsi un disavanzo nell'attività sanitaria, questo disavanzo verrebbe ripianato direttamente dalla regione, così appunto come dicevo, come fa in tutte le altre strutture pubbliche. Di fatto questa sensibilità la regione non l'ha mostrata ed è strano che non l'abbia mostrata, proprio perché il rappresentante legale della fondazione, che è il dottore Cirillo, dovrebbe essere colui che dovrebbe avere più ascendente nei confronti del presidente Lombardo, che lo ha direttamente nominato, e possa rappresentare le esigenze reali, sacrosante dell'ospedale e quindi di tutto il territorio, all'amministrazione regionale per uscire da questa impasse, perché se dovessero rimanere così le cose, cioè se dovessero restare sulla carta questi 36 milioni di prestazioni effettuate ma non riconosciute perché contestate dalla stessa ASP, la fondazione non avrebbe la possibilità materiale di recuperare questo gap, e quindi le conseguenze dovrebbero essere quelle della chiusura non solo del reparto di ostetricia ma anche di altri reparti che possono creare meno produttività per l'ospedale. Cioè si rientrerebbe in una logica che è una logica economica che capiamo tutti, è ciò che è di più squallido e incomprensibile ci possa essere in una società civile. Sì, intanto consentimi di salutare il dottor Giuseppe Danna che ci ha raggiunto in studio. Giuseppe Danna è uno scienziato, dirige l'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilmanna, ma partecipa a dei progetti che con navi vengono effettuati anche sotto il nostro Mar Tirreno, accanto forse anche a un vulcano come il Marsili. Volevo continuare con un'altra battuta per quanto riguarda l'ospedale di Cefalù. Cosa c'è di nuovo? Io so che è uno dei migliori centri in Italia, lo hanno detto alcuni medici, per quanto riguarda per esempio la riabilitazione, ma anche per altri settori che vanno per la maggiore. E che ci sono oggi mezzi all'avanguardia, tipo TAC, PET, risonanza magnetica e così via di seguito. Quindi c'è una crescita notevole anche in termini di mezzi a disposizione. Ma la crescita credo che negli ultimi anni si sia fermata. Si sia fermata proprio per le problematiche che riferivo poc'anzi. Si è fermata... manteniamo comunque per il sacrificio di tutto il personale dell'ospedale uno standard molto alto e sicuramente superiore alla media. Abbiamo un'eccellenza nella traumatologia, nell'ortopedia, dove vediamo gente da tutta la Sicilia che si scapicolla per venirsi a far operare da noi. C'è il professore Pace, Buoneforti ed altri che hanno una certa... Il professore Pace ormai è riconosciuto a livello nazionale, mi permetto di dire anche internazionale, per la sua professionalità e bravura. Abbiamo un centro, un reparto di urologia importante che però ha sofferto, appunto per le stesse problematiche di prima, ha sofferto la fuoriuscita del primario, del dottore Sapoca, che è uno degli urologi più accreditati oggi in Sicilia. Abbiamo per fortuna il centro del laboratorio di tecnologie oncologiche LATO, che è assieme al CNR, è installato e posizionato all'interno, attualmente all'interno del presidio nostro, e che ha potuto fornire, mettere a disposizione della fondazione macchinari di ultimissima generazione come la PET, la BG-FURS, la radioterapia intraoperatoria. Massimo, scusami, ma a proposito della LATO, io so che c'è un progetto e un finanziamento per fare un centro oncologico d'eccellenza. Esiste questo? E per quale somma? Questo LATO, questo laboratorio di tecnologie oncologiche, è un consorzio che è a maggioranza costituito dal CNR. Ha un progetto ambizioso in campo di ricerca e cura oncologica, ma ha avuto già dei finanziamenti importanti diversi anni fa sul merito di Gianfranco Miccichè. Sono state finanziate le attrezzature, alcune delle quali appunto sono già state comprate e installate in attesa di essere spostate dentro il nostro presidio, e ha avviato questo consorzio pure la pratica per realizzare accanto all'ospedale un altro centro grande, quasi quanto l'attuale ospedale, proprio dedicato a questo scopo. È ovvio che per poter arrivare alla soluzione ci vorranno, già LATO mi risulta abbia acquistato il terreno parlato, ci vorranno il cambio di destinazione d'uso, ci vorranno i finanziamenti per la costruzione della struttura, che non è cosa di poco conto. Ma mi diceva un mio amico, il professore Federico Cappuzzo, un noto oncologo italiano, mi diceva di aver letto il progetto LATO. Si è venuto alla radio un paio di volte. E che, ministro, se fosse realizzato il 20% di quello che ho visto scritto, sarebbe uno dei centri più importanti d'Europa sul campo oncologico. E noi ce l'auguriamo, Massimo. Intanto, ti ringraziamo, però ecco, prima di volgere al termine questo nostro piacevole incontro, io volevo chiederti, c'è stato un ricorso al TAR per quanto riguarda il punto nascita. Il TAR non è entrato nel merito, ma intanto ha sospeso il fatto che venisse chiuso l'esecutività di questo provvedimento, e quindi potrebbe esserci qualche speranza che la cosa vada avanti anche per intervento della magistratura. Quindi c'è qualche speranza che le cose volgano al meglio anche in questo senso. Non c'è dubbio che il provvedimento di sospensione dell'esecutività emesso dal TAR di Palermo ha riconosciuto il fumus del del ricorso presentato dai sindaci e ha riconosciuto ovviamente anche il pericolo di danno grave che si andrebbe a determinare con la messa in esecuzione del provvedimento impugnato. E da questo punto di vista il ricorso dovrebbe avere un buon esito, lo ha già dato in via cautelare ed è appunto quello che noi tutti ci auguriamo per mantenere il punto nascita su Cefalù, che ormai è anch'esso un fiore all'occhiello del nostro ospedale. Però, ripeto, il problema è ancora più importante perché il problema serio è quello che coinvolge tutto l'ospedale e riguarda l'altro ricorso che è pure in via di trattazione, che è quello promosso dalla Fondazione contro la Regione appunto per vedere riconosciuto il corrispettivo di tutte le prestazioni che sono state rese e quindi poter sanare i propri conti e pareggiare il proprio bilancio. Ma non c'è qualche timido tentativo di transazione tra la Regione e il San Raffaele? Esiste oppure ancora non? Noi siamo arrivati a decidere come Consiglio di Amministrazione a decidere di avviare l'azione giudiziaria nei confronti della Regione, che è un'aberrazione perché fai ricorso nei confronti del tuo principale socio fondatore, ma siamo stati costretti perché in ordine all'accertamento della appropriatezza o meno delle prestazioni svolte, alla congruità o meno delle somme relative da noi richieste, sono stati avviati già dal 2004 tanti tavoli tecnici che non hanno portato alcun risultato, non hanno sortito alcun effetto e queste inappropriatezze che si registrano quasi a cadenza annuale da 2 a 3 milioni di euro nel tempo hanno determinato questo debito non indifferente che oggi ci mette in ginocchio. E noi speriamo di sollevarci, di levarci dallo stare in ginocchio e finalmente dal continuare questa eccellenza che nobilita un po' il nostro territorio, ma non soltanto, ma anche la Sicilia. Grazie avvocato Massimo Punzi per l'apporto di idee e di notizie che oggi ci hai fornito e auguri per il futuro. Grazie anche dell'ospedale di Cefalù. Credo che ecco, la regia, Angelo Arduino e Fabio ci chiedono di fare una breve pausa e intanto andiamo in pausa. Ecco. CRM Pubblicità. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info 0921 42 38 01. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare. Kenzia al Trappito vi ricorda che anche d'inverno potete godere lo spettacolo del mare con la terrazza coperta. L'amore per le piante a Cefalù è Hobby Garden. Piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore. L'amore per le piante. Via Montessori, Cortile 3, Contrada Pacenzia. Telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati, contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella, telefono 0921 428 927, Vivai Cova, di Fabio Cova, la convenienza di acquistare da chi produce. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno. adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca di fronte il museo. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio, dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni, un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Elezioni comunali di Cefalù. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Domenica 15 aprile alle ore 18 a Cefalù in Piazza Duomo, comizio elettorale del candidato sindaco Rosario Lapunzina, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Svolta Democratica, MPA e UDC. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ricordate, domenica 15 alle ore 18 in Piazza Duomo. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Vi dicevo che abbiamo in studio Pino Minutella e Totò Valenziano. Pino Minutella è allenatore del Cefalù, Totò Valenziano è il presidente della società. Abbiamo in studio il dottor Giuseppe Danna, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilman, e abbiamo anche Liliana Solaro, che è vicepresidente di una sagra di gastronomia che si terrà a finale di Pollena, mentre il presidente, che è anche in studio, Mariella Genchi, cura anche questa sagra della gastronomia. Bene, vorrei continuare con intanto intervalliamo un po' di sport, così rompiamo un po' la con Pino Minutella, allenatore del Cefalù Calcio. Siete tutte e due gongolanti oggi, la società, avreste dovuto fare una festa al campo sportivo di Santa Barbara, ma la morte di Morosini, del giovane Morosini, e noi per questo siamo un po' costernati, rivolgiamo le nostre sentite condoglianze anche un po' a tutto il mondo sportivo che viene colpito da questa notizia. Il campionato è stato sospeso e quindi se ne parlerà per la festa di commiato la prossima settimana, sicuramente domenica prossima, quindi ci sarà questa festa. Pino, nell'uovo di Pasqua avete trovato la promozione, ecco, come è maturata questa promozione? Intanto è giusto e doveroso sospendere il campionato per quello che è successo, era il minimo che si potesse fare per dare veramente rispetto all'accaduto di ieri, e per questo è giusto. Per quanto riguarda l'uovo di Pasqua, sapevamo che la sorpresa poteva essere questa, anche perché è un sogno che cullavamo già dall'inizio del campionato. Sebbene vi ricordate, il presidente era stato fautore di questo: facciamo il campionato di prima categoria per vincere da protagonisti, anche se sappiamo che poi vincere un campionato non è mai facile, perché ci sono tante componenti, che va dalla squadra, dalla sfortuna, dagli arbitraggi, gli infortuni, gli arbitraggi, infortuni. Un po' tutto. Ma siamo stati bravi ad affrontare gli infortuni, l'inizio del campionato che non è stato adeguato a quello che erano le nostre potenzialità, però ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo fatto gruppo, poi con l'avvento di Villafranca, come ci siamo detti settimana scorsa, un centrocampista di valore, è stata quella ciliegia sulla torta che ci ha fatto fare quel salto di qualità. E finalmente dopo tanti anni è venuta questa magnifica vittoria che dà lustro sicuramente al calcio cefaludese. Ecco, Totò Valenziano, ecco, presidente della società, e noi ti abbiamo visto tutte le domeniche anche dall'altro lato della tribuna centrale, chiamiamola così, tribuna centrale, e soffrire, vedere i giocatori. Ora, come hai vissuto questa promozione della squadra? Come l'ho vissuto? L'ho vissuta bene, anche perché diciamo c'ero abituato, io l'ho vinto sia da calciatore sia da allenatore e ora anche da presidente, quindi li ho fatti tutti. Però ci credevo, infatti all'inizio nella presentazione della squadra avevo detto ai ragazzi che volevo vincere il campionato. Sicuramente il gran merito va al mister qua accanto e ai ragazzi che con sacrifici immani e anche altri sacrifici, però grazie sempre agli amici che ci danno una mano, siamo riusciti a vincere questo campionato, secondo me con merito, e speriamo che da questa vittoria possa scaturire qualche altra vittoria per salire, secondo me, più in alto. Che ci fa merito, certo, mai dire mai, e dimenticavo di dire, ma lo dico ora, che Totò Valenziano è una vecchia bandiera del Cefalù. Quando io ero dirigente del Cefalù con il professore Di Francesca, con Totò Giardina, con altre persone che oggi non ci sono più, Totò Valenziano era un roccioso veramente difensore che si faceva valere in tutti i campi e non soltanto a Cefalù, perché è stato anche in altri campi del Palermitano, se non ricordo male anche la Juventina, forse, o forse no, c'era Cerrito, ecco, Marsale, e quindi hai fatto un giro, ma c'era veramente la grande stoffa del calciatore, che ha fatto onore alla città di Cefalù. E ora, da parte tua c'è stata quella passione del presidente, così come la passione dell'allenatore, che hanno accompagnato questo discorso. Ma avete avuto qualche difficoltà? Il fatto che il campo non sia agibile, ecco, non vi ha procurato delle difficoltà? Ma innanzitutto vincere un campionato a Cefalù per noi è un miracolo, perché non abbiamo né pubblico, non viene nessuno, quindi... Anzi, il sabato per la verità ora si è recuperato un po' di pubblico, mentre la domenica non veniva nessuno. Qualcuno che avviene non ci tifa a favore. Per quanto riguarda poi la struttura, non ne parliamo, sembra la Bosnia, il campo sì, è fatiscente, per cui diciamo che le istituzioni non ci vengono incontro, però a loro non interessa, anzi se lo chiudiamo facciamo dei posteggi, per cui non pensando che 130-140 ragazzi che noi alleniamo e che quindi gravitano sul nostro campo, li leviamo diciamo dalla strada per far sì che magari non prendano altre strade brutte. Certo. E quindi ora speriamo che con queste diciamo elezioni, non lo so, ci sia una svolta, che anche diciamo lo sport a Cefalù possa avere dei contributi, degli aiuti per fare un campo migliore, quindi di darci una mano. Certo. Pino Minutella, Totò Valenziano diceva di togliere, ecco, il vivaio che voi avete significa togliere i ragazzi dalla strada, allontanarli dalla droga, dall'alcolismo, dalle cose, cioè impegnarli in qualcosa di bello, di positivo, di divertente, se vogliamo, no? E quindi non ti senti di fare pure un appello a chi sarà il nuovo sindaco per cercare di risolvere questo problema dell'agibilità? Io ce l'ho pure come un pallino questo, cioè, no, ma lei, e terrò i sindaci un po' sotto pressione. Come lei sa, la nostra storia, noi nasciamo proprio sotto l'aspetto giovanile, perché la prima società si chiamava Giovanile Calcio proprio per fare questo. Abbiamo fatto i primi 5 anni come settore giovanile puro. Perché il nostro obiettivo è sempre stato questo, cercare di fare divertire i ragazzi, di distogliere dalle problematiche quotidiane. Certo, l'Ester è stata abbandonata da tutti, si fa andare avanti con molti sacrifici, e questo forse è l'occasione giusta per ringraziare chi ci ha dato una mano, come i Ferdico, come la famiglia Cimino del Carlton e come Giussi Farinella, che è stato forse il nostro maggiore azionista in questi 5 anni. Costa Verde. Non lo dico oggi perché oggi lui è fautore di un movimento politico, magari potrei fare pure pubblicità, ma non è vero. Giussi Farinella da 5 anni ci è vicino. Non è candidato comunque. Quindi, ci sostiene, come è giusto dare applauso ad Augusto Cesare, che da quest'anno è rientrato a tempo pieno a fare il dirigente. Come è giusto dare il giusto applauso a Luciano Santacolomba, che da pochi giorni è con noi in società, perché vuole dare anche il suo contributo per sostenere questa causa, che è quello di sì vincere i campionati di promozione di prima categoria, ma credo che l'aspetto più importante sia quello veramente di fare del sociale, di avvicinare questi ragazzi al campo, di farli sentire importanti, di coinvolgere nello sport, che secondo me li distoglie da tante cose problematiche. Ecco, in conclusione, Pino Minutella, quindi voi state cercando di ampliare, ho capito, la società immettendo nuovi elementi, quindi che speranze ci sono per il prossimo anno? Ecco, ecco, c'è Totò Valenziano che sorride un po', ma no, è presente che un grande appassionato è come noi, come lo me sappiamo. È come me, vive di ambizione, perché è inutile fare sport se uno non è ambizione, perché fare sport per arrivare secondi secondo me non è anche a livello giovanile. Si cerca di vincere, di lavorare per ambizione finale. Sappiamo che da soli non possiamo andare a nessun posto. Dire oggi ci sono le votazioni, speriamo in noi, non possiamo sperare in nessuno, dobbiamo sperare sulle nostre forze e cercare di coinvolgere più persone possibile. L'ho detto, Augusto quest'anno già si è avvicinato a noi e sappiamo che è un vecchio dirigente della Cefalenia. Sì, anche della Cefalenia, è stato assessore allo sport pure. Bravo, Luciano Santacolombo, che abbiamo coinvolto, ci ha dato la sua disponibilità per il prossimo anno. Il figlio di Patinella ci ha dato la sua disponibilità, anche Salvatore Patinella. Patinella, che ha il merito di aver fatto arrivare la squadra in Serie D. In Serie D, mai nella storia della Ora città. C'è il figlio che vuole essere di nuovo coinvolto. Noi siamo aperti a tutti, cioè, perché è inutile fare cerchio o chiuderci. Sappiamo che per fare dei campionati di un certo livello c'è bisogno di molte persone, molti sostenitori. Se poi il comune oppure il nuovo sindaco, il nuovo assessore allo sport ci desse quel contributo in più, sicuramente non sarebbe da scartare, per creare una squadra quantomeno competitiva. Intanto cercare di mettere il campo normativo, cercare di sistemare le tribune, di renderlo agibile in tutti i suoi aspetti, perché oggi entrare al campo Santa Barbara è un pericolo anche per chi guarda la partita. Certo. Questo è l'aspetto fondamentale e primario. Se poi in tutto questo contesto dovesse uscire pure qualche euro per sostenere l'associazione sportiva, per noi farebbe un grandissimo piacere. Grazie Pino Minutella, grazie Totò Valenziano e auguri ad entrambe, e speriamo appunto che il nuovo anno porti una squadra competitiva che faccia divertire gli spettatori e li avvicini ancora di più al calcio, che è uno sport che non costa nulla, diverte. E fa divertire anche coloro che lo fanno attivamente. Grazie ancora e lasciamo Dulcis in fondo la gastronomia con Liliana Solaro e Mariella Genchi e passiamo a Giuseppe D'Anna, che vi dicevo è dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilman, è uno scienziato, lo ripeto, perché ha fatto dei ritrovamenti che sono stati utili per i terremoti, e si occupa continuamente di questo problema, è stato sulle navi a gettare anche dei cavi sottomarini, ha studiato i problemi del circondario. Ecco, Giuseppe, com'è che questo discorso del nostro territorio ballerino? Abbiamo visto piccoli terremoti, per fortuna piccoli, nelle zone tra San Mauro, Gange e così via di seguito, le isole Eole, l'ultimo ora a Palermo che ha spaventato una città, che ha gettato un po' nel panico un po' la città. Per fortuna tutto si è svolto senza danni e questa è la cosa principale. Questo sicuramente, Mario. Cosa è successo? Quella è un'area dove si è manifestato questo ultimo evento di magnitudo 4.2 che nella fascia antistante la costa siciliana, nella costa settentrionale. È una fascia interessata da un gran numero di strutture che corrono parallele alla costa in direzione est-ovest e poi ce n'è tutta una serie che le interseca, che va dalla direzione nord-est verso sud-ovest. Considera che ce n'è una che passando da Ustica taglia la Sicilia, arriva fino a, taglia il Belice e arriva fino ai banchi dell'isola Ferdinandea. Questa è tutta un'unica struttura. Queste strutture continuamente danno terremoti. Per citare un esempio, noi sai, altre volte ho parlato degli strumenti che abbiamo realizzato, queste stazioni da fondomare automatiche che realizziamo a Gibilmanna, ne abbiamo altre quattro in costruzione adesso, e uno di questi è stato messo alla fine del 2010 nell'area proprio dove si è generato questo terremoto e dove nel 6 settembre del 2002 ce n'era stato uno di intensità ancora maggiore che aveva fatto andare tutti a Palermo durante la notte, perché era stato di notte. E quello che aveva tranciato un cavo. E quello che aveva tranciato il cavo, eccetera. Noi siamo tornati in quell'area alla fine del 2010 con uno di questi strumenti. Considera che in quell'area in 8 mesi abbiamo registrato circa 300 eventi. Quindi non è che gli eventi ci sono sempre, il problema è che sono grandi, diciamo, tanto sono per arrivare alla fine a noi. Di assestamento sono sempre piccole scosse. Non si assestano, sono rotture continue che ci sono e quindi questi eventi vanno a localizzarsi in strutture adiacenti. Dovete sapere che questi terremoti sono distribuiti almeno su 9 strutture che si chiamano, noi chiamiamo cluster, cioè quando gli epicentri tendono ad addensarsi in un punto significa che lì è la zona di rottura e di queste zone ne abbiamo trovate 9 soltanto con uno strumento che abbiamo messo nelle vicinanze. Ma è uno strumento che avete costruito voi? Sì, lo strumento l'abbiamo costruito noi qui a Gibilmanna già nel 2006, poi è andato sul Marsili, ne abbiamo costruite altri, dalle isole Eolie. Adesso abbiamo un progetto, siamo coinvolti in un progetto per andare alle isole Svalbard, che sarebbero le isole da cui partì la spedizione di Nobile, per intenderci, al circolo polare artico. E in collaborazione con i colleghi del CNR noi faremmo la parte questa marina di monitoraggio sismico sottomarino e loro farebbero altro tipo di attività di tipo climatologico. Senti, tu hai parlato del Marsili, che è un vulcano sotterraneo, ma dove si trova questo? Il Marsili si trova a circa 40 miglia a nord-est di Stromboli, nord-nord-est di Stromboli, in direzione Napoli. Da Napoli a venire verso il Messinese, verso la zona di Gioiosa Marea, lo incontriamo a circa 150 chilometri da Napoli. Se dovessimo tornare da Napoli. Ma c'è una connessione tra il Marsili e questi terremoti che si verificano alle isole Eolie o in prossimità delle isole Eolie? Le connessioni dirette non ci sono mai in una struttura, però è evidenziato che se c'è un terremoto in una certa area non è detto che tutte le repliche vengano dallo stesso punto, perché rompendosi l'equilibrio in un ipotetico punto che è l'epicentro, sicuramente gli equilibri cambiano nella zona, per cui è possibile che se va sotto il nome di migrazione degli epicentri, che il fenomeno sia dello stesso tipo, è generato nella stessa area ma non fisicamente nello stesso punto. Significa che può migrare anche di qualche decina di chilometri, perché le strutture non sono singoli punti ma sono delle strutture lunghe decine di chilometri. Non è un singolo punto che si muove, quando si muove l'epicentro non è un punto fisico. Non lo possiamo assimilare a un punto, è tutta una struttura che si muove, quindi la generazione avviene lungo tutta la struttura. Se poi si rompe l'equilibrio più a nord, più a sud, a est, a ovest, in funzione di come è fatta la crosta terrestre, è una prosecuzione dello stesso fenomeno ma in zone diverse. Questo non significa che se c'è un terremoto nell'Indonesia noi ne risentiamo qui dalle nostre parti. Questo non è mai stato provato, non c'è connessione diretta. E Pino Danna, ma c'è una connessione per esempio tra l'Etna e il terremoto di Palermo che c'è stato a Palermo? No, sono cose totalmente diverse. Se avete l'Etna, delle curiosità, Liliana, l'Etna potete anche farlo. Fa terremoti di origine vulcanico, cioè terremoti legati al movimento della lava all'interno del vulcano. Questi sono terremoti di tipo tettonico, che non hanno nulla a che vedere. Naturalmente, al di sotto della crosta, se arriviamo al mantello, il materiale fluido è uguale dappertutto nel mondo. Il serbatoio è sempre lì dove si attinge la lava. Mentre le strutture di cui sto parlando qui davanti alla costa siciliana sono strutture di tipo tettonico, non sono, non ci sono. C'è la presenza di vulcani sottomarini, abbiamo detto il Marsili, ma ce ne sono altri, un'altra decina almeno qui davanti da noi. Poi ci sono stati dei due piccoli eventi che sono proprio vicinissimi a Cefalù. Se vi ricordate nel 92 quando ci fu il terremoto di Pollina, sì, e come non ci fu una migrazione di epicentri dal territorio di Pollina San Mauro, che era nella zona di Borrello, lì l'epicentro localizzato, verso il mare, proprio uscire dalla faglia verso il mare, e alcuni terremoti si spostarono poi in mare, e questi recentemente si sono fatti risentire, nel senso che c'è stato qualche evento localizzato proprio in quella zona. Ci potrebbe essere, noi siamo appunto... Ecco, Liliana Solaro credo che volesse rivolgerti qualche domanda. Sì, noi appunto siamo testimoni di quel famoso terremoto nel 92, essendo di finale di Pollina abbiamo vissuto in prima persona quell'evento abbastanza spaventoso per noi, perché non si era verificato in quegli anni, diciamo prima di allora. Dico, lei stava dicendo che in questi ultimi tempi si è ripresentata qualche, diciamo, qualche evento molto più leggero sicuramente rispetto al 92, ma c'è la possibilità che... diciamo si possa ripetere. Le possibilità per i terremoti sono cicliche, e quindi se non è oggi, domani, fra 100 anni si ripeteranno, tant'è che ancora nella Sicilia orientale per problema di statistica si sta aspettando una replica di un terremoto che è avvenuto nel 693, che ha fatto 40.000 morti, non sì, uno sì, sì. E che però ritarda, prima o poi ci sarà, ma è stato si è interposto in tutto questo durante il terremoto di Santa Lucia nel 99, adesso mi sfugge un attimo l'anno, però è stato il giorno di Santa Lucia, e quel terremoto ha scaricato parte dell'energia, per cui è possibile che adesso saltano un po' i conti di quanto ricarichi questa, e quindi può essere che si verifichi, esatto, secolo, esatto, insomma, esatto, cioè il problema di Pollina è che dopo tutto quello che c'è stato, molti edifici sono rimasti pericolanti, quello è la cosa grave, sì, cioè, perché lo Stato non è intervenuto. Diciamo che molti sono stati messi in sicurezza in questi ultimi 10 anni, molti, io ricordo, alcuni sono rimasti, però si è cercato di fare tanto, purtroppo anche insomma, non dipende solo dalle risorse locali, dipende dalle due Italie, quella del nord e quella del sud. Abbiamo avuto dei danni abbastanza, anche perché c'erano delle strutture pericolanti già, non sì, ma erano antecedenti, sì antecedenti, e quindi lì ha aggravato la situazione. Poi ci sono queste strutture che vanno in mare, che continuamente ci danno terremoti. Qual è il problema? Se noi non andiamo lì con una rete a guardarle queste cose, nessuno lo sa che ci sono. Adesso noi lo sappiamo che qui di fronte c'è una capacità di generare terremoti da 3 ai 500 terremoti l'anno, anche se piccoli, ma questo significa che ci sono delle zone attive, per cui prima non lo sapevamo, stavamo tranquilli, adesso non lo sapevamo. Non è questione della conoscenza, l'uomo è fatto per conoscere, non è fatto per ignorare quello che lo circonda. Ci auguriamo, quindi, insomma, di essere preparati se dovesse verificarsi un altro evento del genere. Questo è quella la cosa. Liliana ti pone qualche problema di prevenzione. La prevenzione. Ecco, come si può prevenire? La prevenzione è l'unico argomento serio che possiamo trattare in termini di sicurezza, perché la previsione, non senza badare troppo a quello che si dice sui giornali, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone nel mondo che stanno cercando di capire come fare, ma nessuno ad oggi ha pubblicato mai un articolo che abbia fondamento scientifico, che ci possa dare la previsione in termini di ora, luogo e magnitudo che ci si attende. Quindi non sono prevedibili. Che se ne dica, che con tutta la storia la storiaccia dell'Aquila, dove sono stati peraltro inquisiti il mio presidente e il mio direttore. A me sembra una cosa un po' assurda. Cioè, non è possibile. Non essendo prevedibile. C'è stata una lettera firmata da oltre 1000 scienziati che si occupano di previsioni, dove sostenevano che non è possibile, ma perché c'è stato quell'essere lì ignobile che ha detto che lui poteva con l'argon. L'argon lo studiavo quando io stavo all'università, si studiava l'argon. L'argon, il problema del, vedete da dove nasce fuori, cambio un attimo argomento per capire. E quando si muove la crosta, a parte viene fuori dei gas tipo anidride carbonica, in alcune zone esce fuori dell'argon. Ciò significa che quando esce quest'argon, che peraltro è un gas radioattivo, ci sono stati degli studi per i quali quando la concentrazione aumenta e supera un certo livello si può verificare una scossa. però sono state osservate centinaia di casi in cui è aumentato l'argon e non si è verificato nulla. Come si fa a dire adesso c'è la scossa, evacuo tutta una zona con 100.000 persone perché l'argon è aumentato? Non è fattibile, certo. Non è credibile. E quelle sono soltanto chiacchiere, non c'è nulla di scientifico. Certo, indubbiamente. Io posso dire, ecco, Mario Lombardo mi ha telefonato la sera antecedente, il giovedì sera alle 9, chiedendomi se volevo venire in trasmissione per parlare di queste cose. Potrei dire che Mario Lombardo ha fatto una previsione, perché mi ha chiamato perché sapeva che la mattina alle 8 ci sarebbe stato il terremoto, ma non è così. No, la dote di guardare, purtroppo, perché se una l'avesse avverterebbe la gente. Ma comunque sappiamo che la Sicilia, certo, è un po' ballerina, è un po' un piccolo Giappone, perché ci sono tanti vulcani, tante cose, ma tutto sommato quando si mantengono nell'ordine del 2, del 3, del... E voi che siete di Polli? Ecco, forse stavi dicendo qualcosa. Allora, che sono di Polli, la posso dire che noi subito dopo il terremoto del 92 abbiamo proposto di fare una rete sismica più fitta sulle Madonie, perché non è solo Pollina, c'è la parte dietro delle Petralie, c'è la parte che arriva fino al Resuttano, le Madonie, ci sono una serie di fagli. Ebbene, la risposta ufficiosa delle autorità è stata, dei politici, è stata: se noi finanziamo una rete sismica a Pollina, si può dire che è stato un interesse personale, perché ci sono dei politici molto noti dei vostri luoghi. Questa è stata la risposta delle autorità, che è da rabbrividire. È come se io non dovessi parlare di terremoti perché danneggio un sindaco o un altro, insomma, la stessa cosa. Anzi, a proposito di sindaco, se mi consenti Mario, volevo sollecitare e fare un invito al futuro sindaco, chiunque esso sia. Parlo anche a mio nome. Anche a tuo nome. Sì, nel senso, è successo che noi da anni abbiamo dei problemi serissimi con la strada di accesso all'osservatorio. Rischiamo di chiudere completamente la sede. Questa è la situazione, perché non riusciamo a gestire. Noi i nostri colleghi li invitiamo, ma li invitiamo a venire a Palermo, alla nostra sede di Palermo, perché non a Gibilvanna, perché è inaccessibile, le merci arrivano con difficoltà. Dopo varie sollecitazioni è stato messo su una linea di intervento del Porro regionale un intervento da 500.000 euro per questa strada. Recentemente mi è stato riferito dal Dipartimento della Protezione Civile regionale che a causa dei tagli operati a livello regionale dalla presidenza della regione, perché devono racimolare soldi non so bene per quali scopi, praticamente quelle cose che saltano ci potrebbe essere pure da stare per l'ennesima volta. Una volta trovati i fondi e dove la linea di intervento dove finanziarla, potrebbe essere reso vano tutto lo sforzo, e per questo invito il sindaco a farsi il promotore, futuro, ecco, il futuro sindaco, ormai dice Falù. Il sindaco di futuro dice Falù, certo, no, ormai siamo gli sgoccioli certo. Con la vecchia legislatura, di farsi carico di intervenire presso il Dipartimento Civile Regionale, della Protezione Civile Regionale, per far sì che questo non accada, ecco, che certo, si vada avanti. E quantomeno si ripari pure quella strada di accesso all'Istituto Nazionale di Geofisica, che veramente con l'abrodo è un pericolo pure. In certi casi e in certi punti è franata. Dovrebbe essere chiusa. Quindi dovrebbe essere, ma sappiamo, e non possiamo fare andare avanti il proverbio campo a cavallo che l'erba cresce. L'erba deve crescere in un altro senso, cioè nel portare a termine i problemi che ci sono. E se non hai nulla da aggiungere su quello che state facendo di nuovo per quanto riguarda i cavi o questi sistemi che avete fatto, a fine maggio andremo a posizionare tre strumenti di quelli sottomarini nei banchi dell'isola Ferdinandea. Ricordate quest'isola che spuntò ai tempi dei Borboni nel canale di Sicilia, che fu contesa tra l'Inghilterra e i Borboni, e lì c'è sempre un'attività ponendo questi strumenti. Quindi andiamo a porre tre strumenti, andremo a vedere, perché nessuno li ha mai posti. Quindi prima non li avevamo posti a Palermo e poi ci siamo accorti che c'era tutta questa sismicità. Adesso li andiamo a porre lì perché ci sono dei terremoti, ma nessuno sa quanto è il tasso, quello che si chiama tasso di sismicità, cioè quanti terremoti avvengono in un mese, in un anno, ecco. E quindi così voi lo potete per capire se ci sono i degassamenti, lì c'è la zona vulcanica, non è solo certo, potete tenerli sotto controllo in un certo senso, certo. E quindi grazie dottor Giuseppe Dan, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilman, e passiamo al dulcis in fundo, gastronomia.

Mariella Genchi, presidente del comitato della Sagra di Gastronomia che si svolgerà a Finale di Pollina, ma abbiamo anche Liliana Solaro, vicepresidente dello stesso comitato, che è anche vicepresidente del Consiglio Comunale di Pollina. Bene, Mariella, ti stavo chiedendo, ecco, prima di andare in pausa, come si articolerà questa gastronomia, questa sagra, quando, in quale data si farà e come verrà fatta. Intanto buongiorno a tutti, un saluto ai radioascoltatori, io sono il presidente dell'Associazione Culturale Folcloristica I Saraceni e questa sagra verrà fatta il giorno 29 aprile a Finale di Pollina. Si svolgerà il pomeriggio dalle 17 in poi. Volevo proprio dire questo, che per preparare tutta questa sagra ci sono dei mesi prima, cioè i lavori che verranno svolti sono mesi prima. Noi coinvolgiamo tutti i commercianti del territorio e poi anche tutti i cittadini del nostro paese, perché sono loro, una partecipazione massiccia, da parte, diciamo, di tutti i cittadini, sì, perché sono proprio loro a cucinare i nostri prodotti. E cucineranno loro in una sede che ci dà il Comune di Pollina. E infatti devo ringraziare anche il Comune di Pollina, che ci ha dato anche dei contributi per portare avanti questa sagra. Sì. Il Comune, diciamo, che il sindaco è Magda Culotta, che è stata tante volte, sì, in radio. Anche lei era una nostra socia della nostra associazione. Fai sapere un po' ai nostri radioascoltatori cos'è questa associazione culturale, sì, di Saraceni. Sì, allora la nostra associazione è nata 15 anni fa, siamo un'associazione culturale folclorica, praticamente, cioè, noi siamo nati come gruppo folcloristico e diciamo negli anni abbiamo avuto dei piccoli problemi con i ragazzi, perché purtroppo per problemi di lavoro sono andati via dal nostro territorio e il gruppo un attimino si è messo da parte, però noi con la forza di volontà, grazie a me come presidente, Liliana Solaro come vicepresidente e altri membri del nostro direttivo, che non abbiamo mai mollato, culturali che vanno conservate, sì, perché ci teniamo tantissimo al nostro territorio e cerchiamo di andare avanti facendo delle attività varie e promuoviamo il nostro territorio. Infatti noi, oltre alla sagra della gastronomia, ci impegniamo anche durante l'estate per fare qualche spettacolo e anche per Natale facciamo qualcosa sempre per il paese, per i bambini. La prima sagra della gastronomia risale al 1996. Ci siamo fermati qualche anno per motivi economici. Perché... E questa sarebbe la seconda sagra? No, questa è la quinta. Quinta sagra di gastronomia. Sì, sì. Liliana Solaro, ecco, questa sagra di gastronomia si mette anche accanto a un'altra sagra, che è la sagra dell'ulivo, che voi fate, sì, che si fa a Finale. Ecco, voi cercate di rinverdire delle tradizioni e quindi presentare dei prodotti tradizionali anche per quanto riguarda l'arte culinaria quali prodotti in particolare pensate di poter portare sulle tavole il giorno 29 aprile? Sì, in realtà diciamo che lo scopo appunto della nostra associazione è quella di promuovere, di non far morire quelle che sono le tradizioni, non soltanto culinarie, ma anche dal punto di vista appunto del folklore, della danza, del canto, degli antichi mestieri. Nello specifico, ora, per quanto riguarda appunto questa sagra, i piatti tipici che verranno portati sulle nostre tavole sono fave bollite, patate bollite, bollite, la famosa frittella che veniva preparata dalle nostre nonne, quindi quei piatti che spesso e volentieri oggi non si trovano più nelle nostre trattorie, ma che vengono ancora cucinate nelle nostre case, magari dalle nostre nonne, e che rischiano comunque di scomparire dalle nostre tavole. E appunto il nostro scopo è quello di portarle, di farle assaggiare, di farle assaggiare alle persone appunto che avranno intenzione di visitare la nostra sagra, e di non far dimenticare gli antichi sapori che appunto ci ricordano le nostre radici. In altre occasioni abbiamo organizzato delle mostre mercato, coinvolgendo sempre i commercianti per promuovere i prodotti locali. Abbiamo organizzato delle mostre appunto rappresentando gli antichi mestieri, il ricamo, che è un'altra arte connesse con la sagra, in modo tale da offrire sì. E quindi potrebbe avere anche, io mi rendo conto che per esempio quando vado all'estero la prima cosa che chiedo al ristorante che ci sono prodotti tipici locali, cosa mi consiglia, ecco, e il fatto di rinverdire queste tradizioni, esatto, è utile, ma credo che abbia anche uno sfondo di natura turistica, non sì, è così? Sì, sicuramente, diciamo che i nostri paesi non possono offrire tantissimo, quindi le associazioni, che devo dire a finale ce ne sono tantissime, e spesso e volentieri si adoperano proprio per creare degli eventi sul nostro territorio. Questo potrebbe essere uno di quelli. Nella stessa settimana ci sarà un altro evento che è appunto un happening di scultura organizzato da un'altra associazione che adesso in questo momento non ricordo come si chiami, però dico spesso e volentieri le associazioni sul territorio collaborano per creare degli eventi e attirare comunque turisti. Questo potrebbe essere uno dei modi di fare turismo nel nostro territorio. Certo, gli aiuti non sono tantissimi da parte delle istituzioni, mi rendo conto che il periodo è particolare, quindi non si può, si devono accontentare un po' tutte le associazioni, però sicuramente investire in questo senso significa anche dare la possibilità ai territori e comunque agli abitanti del luogo, ai soci, ai ragazzi che si impegnano tantissimo, e tengo a sottolineare a titolo di volontariato, perché tutti quelli che collaborano e che si adoperano lo fanno volontariamente senza alcun contributo personale, diciamo, non ricevono niente in cambio. Questo è importante, perché c'è proprio la volontà, la voglia, l'amore da parte di questa gente del luogo di aprire le porte ai turisti, ecco. Certo, Liliana, tu sei anche vicepresidente del Consiglio Comunale di Pollina, quindi a te lo posso anche chiedere questo. Uno dei drammi di finale per un certo periodo è stato quello di vedere la chiusura della Valtour. Sì. Io credo che qualcosa sia stata tamponata, credo che potrebbe aprire la Valtour quest'anno. Sì, sì, quest'anno. Questo significa moltissimo per il turismo, per la gente che vi lavora, saranno circa 120 persone che sono a spasso e che potrebbero trovare, sì, purtroppo, un lavoro, no? Sì, sì, sì, purtroppo questo è stato un rischio che abbiamo corso negli ultimi anni, per fortuna non si è verificato, anche quest'anno dico riaprirà il villaggio, credo per circa 3 mesi, quindi in qualche modo si scongiura il pericolo di vedere centinaia di persone comunque a spasso sì. E questo sarebbe molto grave. Come diceva prima il presidente dell'associazione, anche noi nel nostro piccolo abbiamo risentito del fatto che comunque non c'è tanto lavoro dalle nostre parti, e quindi i ragazzi non possono ovviamente mantenere un impegno con l'associazione, quindi portare avanti nella fattispecie il gruppo folcloristico, che necessita sia di ragazzi che di ragazze, per appunto andare a cercare un lavoro fuori, lontano dal nostro paese, purtroppo, sottolineo. Per fortuna insomma ci sono anche delle altre attività, sì, per quest'anno il pericolo insomma è scongiurato, sì. Noi ci auguriamo che venga risolto definitivamente, perché la chiusura di una struttura del genere significherebbe per l'indotto, per tutte le famiglie insomma che hanno in questi anni lavorato insomma grazie a ci lavora da tantissimi anni. Mariella Genchi, voi avete avuto, mi dicevi, questo gruppo, i Saraceni, che avete cercato in tutti i modi di farlo vivere, anche se molti sono andati via per le case della vita, il lavoro ci porta talvolta lontano, quindi vi proponete di impegnarlo in questa sagra della, diciamo, della gastronomia, questo gruppo, e quindi vivacizzare un po' anche, anche in questo senso. Ci stiamo riprovando a ripartire con nuove persone che vogliono riniziare a, che hanno voglia di ballare, di ballare e di cantare. Ci riproviamo. Iniziando prossimamente, perché ci stiamo muovendo, ecco. Ecco, io vorrei concludere questa nostra piacevole chiacchierata con lo sport. Finale, c'è una squadra che purtroppo per ora è in pericolo di retrocessione. Noi ci auguriamo che nell'ultima partita riesca a trovare il rush finale per salvarsi, e l'augurio di tutti perché i nostri cugini di finale possano continuare nella prima categoria. E intanto, parlando di sport, vorrei aggiungere che la Costa Verde Cefalù ha fatto veramente una notevole impresa, andando a vincere a Siracusa per 3-1. È stata una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo e il terzo set. Il primo si è chiuso con il risultato di 20-25, il secondo 24-26, vi fa vedere quanto lotta ci sia stata. Il terzo set 27-25, il quarto non ha avuto storie perché il Cefalù ha dominato e lo ha vinto per 11-25. In questo contesto gli acquisti nuovi di Casale, che c'è stato per tutta la stagione, e di Piccioni nell'ultimo periodo sono stati utilissimi, e ci auguriamo che questo possa servire al Costa Verde Cefalù per partecipare ai playoff, perché sappiamo che questa partecipazione ai playoff è condizionata dalla Golem 5 Frondi, che si trova con il Cefalù quasi appaiato. Oggi è una partita facile con il Battipaglia, e quindi potrebbe avere un punto di vantaggio sul Cefalù, ma noi non disperiamo assolutamente, e pensiamo che la solidità della squadra del Costa Verde Cefalù, che si avvale della presidenza di Salvo Di Giorgi nella società, e di Ezio Oddo anche come organizzatore, ma soprattutto di Giovanni Savasta come allenatore, abbiano il risultato che certamente meritano. Questo credo che è proprio tutto. Io ringrazio l'avvocato Massimo Punzi, che oggi è stato in studio, e ringrazio il dottor Giuseppe Danna, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Gibilman. Ringrazio Liliana Solaro, vicepresidente del comitato, e Mariella Genchi, presidente del comitato della Sagra di Gastronomia. Ringrazio Pino Minutella e Totò Valenziano, e credo che sia proprio tutto. Da Angelo Arduino, Fabio Fiduccia e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Abbiamo trasmesso Qua e là tra una novità e l'altra. CRM.